Quando suonarono le 5:30, ella ancora non accennava a muoversi. Sembrava essere in attesa di qualcosa. Ma di che cosa? Si chiese Ingeborg, il cui fazzoletto era stato compresso in una palla dura che passava da una all'altra delle sue mani nervose. Smuoverla o comunicare pareva un'impresa impossibile. Se ne stava seduta, rigidamente, spostando lo sguardo per esaminare la stanza e ogni oggetto lì presente, ma tenendo sempre sotto tiro anche la nuora per coglierne anche il più impercettibile movimento. Ingeborg afferrò il dizionario e il libro di grammatica, impegnandosi nuovamente a gettare un ponte tra loro, affinché, pur se così tardi, le loro anime potessero incontrarsi. Ma Frau Dremmel sembrò non comprendere la natura dei suoi sforzi, limitandosi a fissarla con accresciuta inespressività quando Ingeborg lesse dal libro di grammatica una frase sul tempo che malauguratamente non corrispondeva alle condizioni atmosferiche di quel giorno. Che cosa stava aspettando? L'orologio batté le 7. E lei ancora attendeva. Nella stanza si udiva il ticchettio di minuti scanditi dalle lancette e ogni mezz'ora i rintocchi del campanile. Ingeborg portò alla suocera un poggiapiedi, poi un cuscino. Disperata le offrì un bicchiere d'acqua. Iniziò a ricucire uno straccio per la polvere che si era strappato, poi smise. Sfogliò veloce le pagine della grammatica, studiò con attenzione il dizionario. Frau Dremmel non cessò un istante di scrutare ogni sua mossa. Man mano che le ore passavano, Ingeborg si ritrovò a dover combattere contro la tentazione di considerare sua suocera la stregua di uno dei tanti oggetti presenti in salotto. Alle 7 udì Hilse andarsene a casa cantando, beata lei che poteva uscire da lì. Infine si compose a sua volta in una postura statica e rimase immobile, rinunciando alla comunicazione e rimanendo seduta ferma sulla sua sedia, pallida e abbattuta, il rossore delle guance ormai del tutto defluito. Per lei e Robert era ormai ora di cena. Presto sarebbe stato ora di andare a letto e quanto prima sarebbe stato il giorno dopo. Poi sarebbe arrivata la settimana successiva e dopo ancora l'inverno. Sarebbe mai riuscita a vedere la fine di questa visita? Infine alle 8 le fu chiaro che ciò che Frau Dremmel stava aspettando doveva essere la cena. Questo era terribile, dato che non ve n'era. O perlomeno vi poteva essere, ma sotto forma di ripetizione del tè della colazione, uno dei provvedimenti che di certo rendeva il suo stile di vita e quello del marito alquanto salutare. Aveva previsto la visita solamente sulla base del tè e quindi aveva preparato ed elaborato ogni cosa di conseguenza. Per un'altra mezz'ora continuò a starsene seduta, sperando di sbagliarsi. Ignorava che nella Prussia orientale, se si è invitati per il tè, ci si ferma anche a cena. Ma alle 8:30 dovette arrendersi e accettare che non restava altro da fare se non uscire e portare gli avanzi in casa. Quando i rimasugli del pasto che le era già stato offerto furono prodotti una seconda volta e disposti alla bella e meglio sul tavolo del soggiorno di rado adibito a quell'uso, vicino ai volumi di Meredith e Kipling accantonati in un angolo, come ossa di uno scheletro che venisse lentamente ricomposto sotto i suoi occhi, e Ingeborg ebbe cessato di affannarsi a disporre piatti per sistemarsi finalmente su una sedia, indicando che quello era tutto, Frau Dremmel, dopo aver aspettato ancora un attimo, aprì la bocca e stupì sua nuora emettendo un suono. Bratkartoffel, fu la parola che articolò Frau Dremmel. Ingeborg, sussultando, si tirò su velocemente. Dopo tutte quelle ore di silenzio si trattava di un evento prodigioso. Bratkartoffel, disse di nuovo Frau Dremmel. Avete parlato? Chiese Ingeborg fissandola. Bratkartoffel, disse Frau Dremmel una terza volta. Ingeborg, balzando dalla sedia, corse lungo il corridoio fino alla porta del laboratorio. Robert, Robert, gridò girando la maniglia. Vieni, vieni subito. Tua madre sta parlando, sta dicendo delle cose. Nella sua voce vi era la stessa meraviglia ed emozione presente in quella del genitore il cui bambino abbia all'improvviso e per la prima volta detto papà. Herr Dremmel emerse dal laboratorio senza indugio. Dal tono della sua voce aveva capito che doveva essere accaduto qualcosa. Ingeborg lo afferrò e lo spinse verso il soggiorno. Ascolta, gli disse, tenendolo fermo lì di fronte al divano. Herr Dremmel la guardò perplesso. Che cosa c'è, piccola? Le chiese. Senti, ora lo dirà di nuovo, disse Ingeborg con grande partecipazione. Che cosa c'è, madre? Le chiese in tedesco. Frau Dremmel, senza muovere il capo, lasciò correre lo sguardo sulla tavola. Non vi sono nemmeno, esordì, poi fermandosi. Era evidente che stava tentando di combattere un'emozione. Fulmini e saette, esclamò Herr Dremmel guardando da una donna all'altra. Si può sapere di che cosa si tratta? Per Frau Dremmel fu impossibile. Dopo le ore passate in attesa della cena, che sembravano in ogni dettaglio un insulto studiato da parte di sua nuora, sopportare le dure parole del figlio. Estraendo un fazzoletto che sembrava non avere mai fine e che le arrivò fino agli occhi, pur continuando a rimanerle in tasca, scoppiò a piangere. Ingeborg rimase allibita. Corse da lei e, inginocchiandosi, le implorò in inglese di dirle che cosa le stesse succedendo. La chiamò liebe Schwiegermutter infinite volte. Le accarezzò il braccio, le diede una serie di lievi colpetti materni in successione e arrivò persino a posarle la testa in grembo. Ma Frau Dremmel, per la prima volta, non la notò. Stava articolando brandelli incoerenti di frasi dentro il suo fazzoletto, tutte espresse all'indirizzo del figlio. Sono vedova, piangeva Frau Dremmel. Sono vedova da 10 anni. Se penso al tuo caro padre, alla grande considerazione in cui mi teneva. La mia prima visita. La mia prima visita dopo il tuo matrimonio. Trattata come se fossi una persona qualunque. Obbligata a bere il caffè fuori, all'aperto, come un animale randagio. Senza divano, senza un vero tavolo. Nugoli di zanzare. Senza cena. Niente per cena, niente preparato per me, per la madre, per la moglie del tuo santo padre. Lui che si prendeva cura di me già molto prima che tu fossi anche solo nei nostri pensieri. Se non fosse stato per me, tu ora non saresti qui e nemmeno lei. Tornerò a casa a stomaco vuoto, senza che mi sia stata elargita la minima cura. Nemmeno l'essenziale che una madre si aspetti di ricevere dal figlio per dovere. Nemmeno quello che anche il più povero contadino ha per cena ogni sera. Nemmeno. E di nuovo pronunciò la parola magica. Bratkartoffel! Su, su, diceva Ingeborg, accarezzandola con espressione ansiosa e tentando di calmarla. Su, su. Robert, che cosa significa Bratkartoffel? Ma non importa, non importa. Continuò Frau Dremmel asciugandosi gli occhi, ma solo per versare nuove lacrime. Tanto presto sarò con lui, di nuovo con lui, con il tuo caro padre. Questo non è niente. Tutto questo è niente. È solo la volontà di Dio. Su, su, disse Ingeborg, continuando ad accarezzarla con espressione crucciata. Capitolo 15. Fu solo alcuni giorni dopo che scoprì il motivo delle lacrime di sua suocera. Non era riuscita a capire alcun indizio da Herr Dremmel, dato che era impossibile trattenere i suoi pensieri anche per un solo istante su un argomento del genere. Egli infatti aveva allontanato quei discorsi con un gesto del braccio come di chi intenta spazzar via l'immondizia dall'ambiente circostante. L'unica cosa che gli fu possibile estorcere fu un'osservazione di carattere generale riguardo ai pochi benefici ricavabili dalla consanguineità. Quel pomeriggio Ingeborg, invece di esplorare come al solito i sentieri della foresta, camminò più a lungo, affrontando il sole, le mosche e il fondo sabbioso, oltrepassando il villaggio per vedere dove portasse la strada. Fu così che, stanca e accaldata, giunse presso un boschetto di alberi, che non erano pini o abeti, ma tronchi sormontati da chiome fresche e frondose come querce, acacie e betulle argentate. Passando tra i tronchi lungo una strada dove l'erba aveva preso il sopravvento e sventagliandosi con il cappello mentre giungeva in una zona di deliziosa frescura, si arrestò dinanzi a un cancello bianco sul quale era fisso un cartello che intimava di non oltrepassare quel limite e dietro cui si vedeva un giardino. Lì, oltre le aiuole fiorite e l'erba disordinata cresciuta a dismisura, si intravedeva una grande casa dal tetto scosceso che si ergeva sulla sommità di un terrapieno. Un cane ansante, sdraiato sul prato con la lingua a penzoloni, era l'unico essere vivente che si offrisse alla vista. Anche il rumore si limitava al fruscio delle foglie e al debole cinguettio che producono gli uccelli in luglio. «Chi vive in quella grande casa bianca lassù?» chiese Herr Dremmel quando lo vide la volta successiva. «Vale a dire la sera in occasione della cena», indicando la direzione con il capo essendo entrambe le mani occupate a reggere il brico del caffè. Herr Dremmel era irritato. Fino dall'ora della colazione era stato assorbito nel disbrigo degli affari della parrocchia. Era infatti uno dei giorni che ricorrevano ogni 2 settimane, nei quali, grazie a un'abile strategia organizzativa, riusciva a smaltire tutte le richieste dei parrocchiani. In quelle giornate, che cadevano di martedì, il mondo non mancava mai di apparirgli come un luogo denso di pazzia. Si era convinto che la gente nascesse e vivesse immersa nella follia, e quella dei genitori, già vecchia e trita, veniva trasmessa di padre in figlio intatta, nemmeno minimamente scalfita dalla ragione, pensava Herr Dremmel a martedì alterni, e l'eventualità che le cose potessero essere cambiate, rese diverse e migliori, veniva rifiutata a pie pari. I programmi scolastici vertevano ancora su argomenti quali il compleanno di Bismarck, il direttore della scuola, disperato, si affaccendava a rilevare le frequenze degli alunni e tentava di ottemperare a quell'esigente normativa che gli intimava di bacchettare chi era assente. Gli anziani della congregazione parrocchiale si rifiutavano di far sistemare il campanile per tempo. La classe dei cresimandi accoglieva la catechesi e i rimproveri con pari disinteresse. Le autorità ecclesiastiche avevano richiesto nuovi rapporti dettagliati sui progressi compiuti quando non v'erano affatto e mai avrebbero potuto esservene. Le coppie vivevano dimentiche del matrimonio solo per chiederlo con grida insistenti all'ultimo, affrettato momento. I neonati venivano ancora battezzati precipitosamente prima che le stesse negligenze, già a causa di altre vittime, vittime che a quell'ora sarebbero state i nonni orgogliosi e felici, portassero via ulteriori fanciulli. E i contadini continuavano a svignarsela nell'udire il minimo accenno alle parole saggezze e concime. Era terribilmente adirato di dover sprecare il tempo mettendo in pratica coscienze e sotterfugi d'ogni sorta mentre il suo vero lavoro rimaneva trascurato sia fuori sotto il sole che dentro nel laboratorio. E un'intera giornata, formata da 12 preziose ore, se ne andava per sempre. Quando Ingeborg gli chiese: «Chi vive in quella casa bianca?» Herr Dremmel, già stizzito per il tempo sprecato, per la continua sfrontatezza del cielo sopra di lui e per la sua permanenza in quel luogo di alberi e zanzare, la fissò per un istante e poi esclamò, picchiando al contempo una violenta manata sul tavolo: «Diavoli dell'inferno!» «Chi?» chiese Ingeborg. «Dobbiamo subito fargli visita!» «A chi?» «Al mio patron!» «Sarà offeso a morte che io non ti abbia presentata appena arrivati! Mi ero completamente dimenticato di lui!» «Così un altro giorno andrà perso. Che seccatura queste incombenze sociali!» Si alzò e, pestando i piedi, stampò alcuni passi agitati attorno al tavolo. «Non si fa a tempo», disse, accigliandosi con espressione stizzita in direzione del sentiero, «a sistemare una cosa che subito se ne presenta un'altra. Oggi tutto il giorno per i poveri, domani tutto il giorno per i ricchi. Ma la visita durerà tutto il giorno?» Entrambi ugualmente ostinati, entrambi ugualmente imprigionati da capo a piedi nella corazza impenetrabile della convinzione sociale. Come può un uomo svolgere il suo lavoro se vive risucchiato in un costante turbinio sociale?» le chiese, voltandosi verso di lei con tutta la rabbia e l'indignazione del lavoratore frustrato. Ingeborg sedeva osservandolo con evidente stupore. «Non può», rispose. «Pensi davvero che noi turbiniamo, Robert? Definiresti vorticoso il tipo di vita che conduciamo?» «Cosa? Quando il mio lavoro è stato trascurato tutti i giorni a causa dei poveri e lo sarà ancora tutto il giorno domani per via dei ricchi. Ma la visita durerà tutto il giorno?» «Un uomo si deve pur preparare. Non può far visita così com'è. Deve lavarsi», disse Herr Dremmel con un'espressione di spazientita tetraggine. E ancora più spazientito e tetro aggiunse: «E deve indossare una camicia pulita». «Ma...» iniziò Ingeborg. Egli la ridusse al silenzio con un cenno. «Le camicie pulite mi infastidiscono», proclamò, accompagnando quest'uscita con un maestoso gesto del braccio. Ingeborg lo fissò con le labbra dischiuse, chiaro segno di interesse. «Sì, una camicia pulita mi mette a disagio almeno per le prime 2 ore. E allora non facciamola questa visita. Siamo talmente felici così come stiamo ora?» «No», proseguì Herr Dremmel, immediatamente portato a ragione dal sostegno della moglie alla sua illogicità. «Non ne possiamo fare a meno. Vi sono dei doveri che un uomo per bene non può trascurare, e io sono un uomo per bene. Invierò un messaggio per chiedere se la nostra visita domani può essere accettabile e indosserò la camicia pulita per tempo in modo che possa abituarmici. Durante la visita poi mi sforzerò di indurre il mio patrono a scordare il fatto di essermi dimenticato di lui». Negli ultimi tempi Herr Dremmel si era parecchio esercitato a dimenticare il proprio patron, intraprendendo questa linea d'azione semplice ed efficace dopo varie accalorate divergenze d'opinione. Il suo tutore, il barone Clambeck von Clambeck, Un vero cristiano che professava il proprio credo con serietà riteneva che i poveri dovessero, come un enorme pudding che altrimenti non potesse riuscire bene, venire continuamente rimestati. Era pertanto incapace di approvare un pastore il quale, eccetto che in chiesa e a martedì alterni, si asteneva dal rimestare continuamente gli animi. D'altro canto, era proprio per questa propensione ad astenersi dal rimestare che Herr Dremmel era così popolare in seno alla congregazione. Prima della sua venuta, invece, vi era stato un costante stillicidio di pastori che non si astenevano un solo istante dal ficcare il naso nella vita dei parrocchiani. Herr Pastor Dremmel, benché fosse particolarmente impetuoso sul pulpito, era decisamente pacato fuori, come un buon cane da guardia era scatenato alla catena, ma indifferente quando era libero. Coppense, insorgendo come un sol uomo, si era rifiutata di avallare l'intenzione manifestata dal barone qualche tempo prima di deporre Herr Dremmel dal suo ufficio. Questo perché il suo pastore, una presenza invisibile e assorta, non andava a dispensare consigli di casa in casa. Si trattava di una dote notevole per un ministro di culto ed era doveroso attribuirle il giusto peso. Nulla quindi si poté a fronte dell'opposizione parrocchiale e Coquense finì per tenersi il suo pastore. Nel frattempo, però, il barone Glambeck aveva cessato di patrocinare il servizio divino a Coquense e nel momento in cui Herr Dremmel si recò da lui per presentargli Ingeborg, il silenzio fra lui e il suo pastore durava ormai da 3 anni. La visita dei Dremmel era stata annunciata per le 4. Quando gli ospiti raggiunsero la casa, dopo aver percorso la strada ombrosa su cui l'erba aveva preso il sopravvento e dopo aver oltrepassato il cancello bianco, furono accolti all'ingresso da un domestico che, se si fosse trattato del palazzo di Rochester, sarebbe stato Wilson. In cima alle scale, il barone Glambeck, vestito di nero e abbottonato fino al mento, l'espressione formale, seria. Dietro di lui, sotto il lucernaio della terrazza, sua moglie, vestita di nero e abbottonata fino al mento, l'espressione formale, seria. Se Ingeborg ne fosse stata a conoscenza, avrebbe notato che essi adempivano con la massima correttezza tutti i requisiti che le convenzioni sociali imponevano in quella parte del paese. Gli abiti di entrambi erano sobri, disadorni, senza nemmeno una grinza. Lei era immensa nella sua austerità, lui smilzo nella sua. Salutarono Ingeborg con l'ammontare esatto di cordialità che più si confaceva all'occasione, cioè accogliere la nuova moglie di un pastore che avrebbe dovuto far visita molto tempo prima, ma che non era in alcun modo imputabile di quel ritardo, né tantomeno degli spiacevoli trascorsi che costellavano i passati rapporti con il marito. La loro quindi fu una cordialità ammantata di gelo. Il luogo, zeppo di stemmi del casato, trasudava dignità. Monogrammi e corone gentilizie erano ricamate o dipinte su tutto ciò che si toccava o su cui ci si sedeva. I trofei dei cervi uccisi dal barone, ognuno recante la data e il luogo della caccia, rivestivano fittamente le pareti. Intorno a loro solo domestici di sesso maschile. Toglietevi il cappello, prego, ingiunse la baronessa in inglese, ben attenta a mantenere la propria voce su una tonalità leggermente polare. Ingeborg ne fu quasi impaurita. Sarebbe stata del tutto impaurita se, grazie al tirocinio compiuto presso il vescovo, non fosse stata così ben addestrata a non dar peso alle alte cariche. Da molti anni oramai aveva cessato di mostrarsi timida in tali occasioni. Aveva un'opinione così modesta di sé che lei non vi era il minimo spazio per l'imbarazzo, pertanto arrivò dai baroni Glambeck nella sua condizione abituale di estrema naturalezza, pronta a chiacchierare, divertirsi e interessarsi di ogni cosa. Non appena incontrata la baronessa, però, che prese a osservarla con evidente stupore, comprese immediatamente che il suo abbigliamento non era corretto. E anche solo la richiesta, l'invito, la pretesa, in realtà non sapeva bene di che cosa si trattasse, di togliersi il cappello, le fece comprendere di trovarsi in un territorio inesplorato, un luogo dove le fitte ragnatele di usi e costumi alieni rendevano il suo cammino alquanto insidioso. Per un istante fu sul punto di provare paura. Starete più comoda senza cappello, la esortò la baronessa. Obbediente se lo tolse, sfilando le forcine e lanciando nel contempo occhiate furtive in direzione della chioma bruna della baronessa, liscia e acconciata nel più inappuntabile dei modi. Con la chiarezza di una rivelazione si rese conto che quello era l'aspetto che ci si aspettava anche da lei. Piaciuta, naturalmente, poiché gli anni non avevano potuto ancora portare a termine la loro opera, ma comunque una versione più magra del medesimo effetto. Sempre anelante a compiere il proprio dovere, decise che avrebbe acquistato un abito nero e iniziato a far pratica. Non avendo messo in conto tale evenienza, pensò fosse più saggio non pensare all'aria disordinata che doveva avere la sua testa. Sapeva bene, infatti, quanti i suoi capelli fossero vagabondi per natura. Uno stuolo indisciplinato incline a sfuggire alla presa delle forcine e a girovagare per conto proprio in capricciose formazioni di riccioli anelli. Questi risultavano ancora più visibili a causa della somiglianza del loro colore, un bel rosso vivo, alle tonalità dei suoi antenati di razza scandinava, uomini bruciati dal sole che navigavano la conquista della terra, le cui barbe, a seconda del modo in cui la luce la colpiva, assumevano di volta in volta il colore delle fiamme, delle albicocche oppure del miele. Beh, comunque erano stati loro a obbligarla a togliersi il cappello. Già dal momento in cui si ritrovò sul divano nel salone interno, su cui venne fatta accomodare senza indugio, era ritornata in possesso della sua abituale naturalezza. Pertanto sedeva chiacchierando con aria interessata e senza la minima ombra di imbarazzo. La baronessa non cessava di scrutare la sua persona con uno sguardo decisamente simile a quello della suocera e ogni qualvolta raggiungeva i piedi vi si soffermava a lungo. Anche in quell'occasione la sua gonna arrivava solo fino alle caviglie, così come del resto tutti i suoi abiti da passeggio. Non posso evitare di avere dei piedi, si disse Ingeborg, seguendo gli occhi della baronessa. Erano piccoli per natura e le calzature dalla foggia ricercata provenienti dal calzolaio di Londra, che aveva partecipato alla fornitura del corredo di Ingeborg e della sorella, riuscivano a farli sembrare ancora più minuscoli. Ella però non tentò di nasconderli come quando Frau Dremmel li aveva fissati con insistenza. Forse perché era stato soprattutto il suo silenzio a metterla a disagio. Costoro invece parlavano e l'inglese della baronessa fluiva in modo rassicurante. Nessuna che avesse dei piedi tanto piccoli e di certo inetti, pensò la baronessa e simultaneamente anche il barone, poteva essere adatto al ruolo di moglie del pastore. Anzi, nessuna vena donna poteva averli così. Di solito erano di tali dimensioni durante la fanciullezza e poi mai più. Le faccende domestiche per le quali si correva, l'incessante saliscendi per le scale, le ore passate sul freddo pavimento di pietra nei quartieri dei domestici a sorvegliare che questi non imbrogliassero, le molteplici, onorabili attività femminili che conferivano bellezza e dignità alla donna, tutto questo le imponeva la necessità di indossare scarpe capaci, comode. I piedi di una moglie, come si conveniva, necessitavano di spazio per espandersi e appiattirsi. I piedi erano una delle numerose porzioni del corpo concepite dal creatore nella sua estrema saggezza per essere usate e non ostentate. Per quanto riguardava il resto dell'aspetto di Frau Pastor, poi era vero che alcune giovani donne nel paese solevano vestirsi in quel modo durante l'estate, ma si trattava di signore appartenenti alla cerca dei Glambeck, signore di buona famiglia o maritate esponenti di buona famiglia. Il fatto che la persona andata in moglie al proprio pastore, il cui padre era stato uomo di oscuri natali e di ancor più fosca esistenza, che nemmeno la sua morte avvenuta più di 10 anni prima era riuscita a rendere rispettabile, dovesse conciarsi in quella maniera era decisamente increscioso. Avevano già sofferto molto a causa della condotta del loro pastore, un ecclesiastico dal comportamento poco cristiano e dalla lingua troppo sciolta. E ora, invece di presentar loro una donna dimessa e abbigliata di nero, con un abito tanto abbondante da raggiungere e fagocitare ogni porzione di corpo che si offrisse alla vista come i polsi, le caviglie o la gola, e magari con il petto ornato da una catena d'oro di foggia austera, trattandosi di un evento ufficiale ed essendo lei, dopo tutto, una giovane sposa, possibilmente una catena sottile e non acquistata, bensì ereditata, eccolo che presentava loro la moglie meno consona che si potesse immaginare, a parte naturalmente se avesse presentato loro una donna di razza ebrea. Per quanto riguardava la sua acconciatura, poi, quella testa piccola con i capelli in disordine e con quel color di fiamma che ricordavano la chioma di un monello cresciuta di smisura e che ribelle si imponeva alla vista non appena liberato dal cappello. Il caffè fu servito sul grande tavolo posto di fronte al divano. La baronessa sedeva accanto a Ingeborg, mentre il barone e Herr Dremmel si portarono con la sedia uno di fronte all'altro. Il caffè era di ottima qualità e fu offerto un unico squisito dolce. Niente uva spina, fiori o poco maneggevoli tramezzini, ma solo eccellenza e semplicità. I due uomini chiacchieravano fra loro senza mai rivolgere la parola alle donne, il barone tenendo un contegno compunto e guardingo, Herr Dremmel impegnandosi molto per risultare amabile e mai offensivo. Nell'aria erano palpabili le memorie dei passati alterchi. Tra loro aleggiava anche il ricordo dei 3 anni durante i quali il barone e sua moglie, in conseguenza dell'ultimo più accalorato diverbio d'opinione, avevano presenziato a ogni sacra funzione in una chiesa non di loro proprietà. Avevano totalmente estromesso Kuchense dalla loro vita. Per 3 anni il loro palco privato in chiesa, dove i loro antenati si erano recati per riverire Dio una volta ogni 2 settimane, era diventato un luogo di divertimento per i topi. Le sedie erano ricoperte di polvere. E il libro degli inni, oramai ingiallito, giaceva ancora aperto, nel punto in cui i Clambeck avevano cantato per l'ultima volta le lodi al Signore. Un tal venir meno dell'approvazione superiore avrebbe reso la vita di qualsiasi altro pastore fredda e desolata, ma Herr Dremmel se ne accorse a malapena. Non possedeva vanità ed era persino contento che il pastore rivale si sentisse gratificato. I commenti della comunità non gli interessavano e non si curava di sberleffi o sorrisetti derisori. Badava esclusivamente a svolgere il suo lavoro. Si ritrovò quindi sollevato, affrancato almeno da quell'elemento di disturbo, quando il suo tutore dimostrò di volerlo privare dell'onore della sua presenza. Difatti, quando nel raggiungere casa Clambeck gli sovvenne di non avervi messo piede per 3 lunghi, indisturbati anni, provò un senso di gratitudine che dimostrò compiendo eroiche gesta di affabilità sociale durante la visita. Convenne in modo spropositato con tutto ciò che il barone asserì. Qualsiasi argomento venisse sfiorato con gran cautela, poiché il barone diffidava di qualsiasi soggetto quando si trattava di Herr Dremmel, egli all'istante lo tirava a riva, allontanandolo dalle pericolose secche delle circostanze contingenti e lo isolava ad altezze e distanze cosmiche. Altezze e distanze tali che persino le affermazioni del Kaiser diventavano alla fine un trascurabile eco, mentre coscienza e dogma si spegnevano tremolando nel silenzio. Egli spiegò al barone, che con circospezione rispondeva forse, come le opinioni delle persone potevano differenziarsi notevolmente se osservate da vicino, ma che se si avesse avuto l'accortezza di ampliarle a sufficienza, di restringerle di nuovo riportandole a giusta misura, quindi di spingerle verso l'alto, di portarle poi verso il basso, alle giuste profondità, di sottrarne i dettagli e di rimuoverle dalla linea di primo piano, si giungeva al cospetto della grande madre opinione comune a tutte le opinioni, nel cui ampio grembio gli uomini si raggomitolavano, ognuno felice della propria identità, per cadere addormentati nel più placido dei sonni dopo uno scambievole bacio. Forse, rispose il barone, i personaggi, gli interessi del momento, il dovere e la vita quotidiana erano tutti argomenti che venivano immersi nei fondali di acque profonde, dove con gentilezza ma anche con determinazione Herr Dremmel portò il barone a nuotare. Bisognava solo, e egli ripeteva con convinzione, scaldarsi con il desiderio di trattenere dentro di sé ampie regioni di disponibilità, ove potesse esservi spazio per tutti e, andando a ritroso, far risalire una coppia di opinioni per quanto fortemente divergenti, fin dove trovassero un punto di contatto e combaciassero. Forse, ribadì il barone. È sufficiente che una persona, proseguì Herr Dremmel, abbracciando all'infinito con ampie gesticolazioni. Ma il barone si schiarì la gola e iniziò a enumerare fatti contrari a quella tesi. Herr Dremmel convenne all'istante sulle ragioni del suo interlocutore e spinse un po' più indietro il punto di contatto. Il barone controbatté, portando a sostegno ulteriori argomentazioni. Herr Dremmel convenne di nuovo, spingendosi ancora un po' più indietro. In tal modo giunsero ben presto al giardino dell'Eden, oltre il quale il barone rifiutò categoricamente di addentrarsi, adducendo il pretesto che nessun cristiano rispettoso avrebbe potuto oltrepassare quel punto. E così dicendo, ripudiò il bacio. Era infatti convinto, nonostante tenesse quel pensiero ben celato, che nessun pensiero del pensiero umano, la sua visione, quella di Herr Dremmel, avrebbero potuto combaciare. In ogni caso, Herr Dremmel, evidentemente risolto a far pace, si stava comportando in modo estremamente cordiale. Il barone, riconoscendo quel fatto, divenne meno incline alla diffidenza. Alla fine, dopo essere stato occupato a dissezione con accanimento le opinioni di Herr Dremmel, ne enunciò una delle proprie, affermando che a suo modo di vedere erano i dettagli a rendere la vita tanto difficile. La baronessa, alla quale il marito stava molto a cuore, dopo aver carpito quel brandello di conversazione, si premurò subito di versargli un'altra tazza di caffè con molto latte.